cammino mi colpirai, mi prenderai come un gatto prende un piccolo pulcino e afferrerai tra le dita e tu vedrai un bel mattino, un posto caro anche per te. Dei sospiri nel cielo scuro, dove le nuvole minacciose si muovono, e se tempesta vedi costì, di sicuro tempesta sarà. Chiudi ogni porta e poi tra i capelli le dita e poi me, piantato nei pensieri tuoi, batte il mio tempo e cade su nuvole di sogni che la tempesta porta via le grandi distanze, separeranno grandi amori e vite appese ad un mattino che col tuo sguardo hai chiuso in me. Non mi rassegno, io non resto fermo qui e ti cercherò e ti racconterò di me, dei pensieri affogati ormai in quell'orizzonte mio che trattiene le tracce tue, e ti innamorerai di me, della mia tenerezza ingenua che solo lo sguardo tuo può rapire e risplendere in una luna nuova.